Buonasera a tutti, inizia Zardis Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle ore 21:30 qui dalla sede di Radio Onde Furlane da Udine. Ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla di apertura per questa trasmissione che è Zardis Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Ricordo che questo programma è condotto, insomma, va avanti grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Oggi giovedì, come già detto, però giovedì 23 maggio, quindi prima volta per questo 2024, è ovvio. E andiamo ora con questa band londinese, più volte l'abbiamo passata in questo programma. Loro sono gli Inner Terrestri, dal loro album datato 2003 che si intitolava semplicemente X. Inner Terrestri. You do not invite leniency, do you? No. Juan Sorroche partecipa da 20 anni alle lotte contro lo Stato e il capitalismo, subendo per questo vari periodi di detenzione, durante i quali non ha mai smesso di lottare, attuando scioperi della fame, del carrello, della spesa o rifiutando di rientrare in cella dopo l'ora d'aria. È stato arrestato nel 2019, dopo oltre 2 anni di latitanza, e condannato in Cassazione a 14 anni e 10 mesi di carcere, accusato di aver posizionato 2 ordigni presso una sede della Lega a Treviso nel 2018, quando lo Stato razzista chiudeva i porti alle imbarcazioni cariche di migranti. Per fargli sentire ancora di più la nostra vicinanza, oltrepassare le mura e rompere l'isolamento. Invitiamo chiunque di voi scriva haiku, poesie, sillabe incendiarie o versi scatenati ad inviarli alla mail versiscatenati@canaglie.net. Oppure scriveteci all'indirizzo ex Lateria, Stradone Sant'Agostino, 39R, 16123, Genova. Haiku senza haiku, versi scatenati. Nel vero squarciamo il velo, perciò siamo malfattori, amor ritiene uniti gli affetti naturali. Amix, amica, se sei lontano guarda la luna, guarda la terra, guarda il sole, guarda le stelle. Amico, se sei lontano, nuvole nere, nuvole grigie, nuvole bianche, nuvole rare. Amica, se sei lontana e il cielo è offuscato, rare nuvole, nuvole nere, nuvole grigie, nuvole bianche. Amico, se sei lontano, uno è tutto e tutto è uno. Osservo, osserva, vedo. Giorno, notte, giorno. Luna, sole, stelle. Rare, nere, grigie, bianche. Amica, se sei lontana, tutto è qui, una pietra. È il peso de las ballenas. Quando bailaremos como ballenas, libres del peso que tenemos, ligeros, vacíos, ballenas. Lo sciopero della fame, qui nella cella, brontolio di viscere, dubbi altalenanti, fiuto di cane, odori di pranzo, aromi di cena, cefalea di seppia, bolla cerebrale. Lo sciopero della fame, nel letto della cella, infermeria, esco fuori della sezione, paura, insicurezza, buongiorno, mi giro, vado avanti, acqua con limone. Virus, tenebre viscose, annaspo con affanno nel buio, un respiro, una stella. Ecco, c'è. Ridere. I cachi, quando sono buoni dal mio concellino. Onnipotenza, piccolo povero geco. Nella cella ti ho messo in salvo, intervenendo. La sera mi alzo a fare la pipì. Ti schiaccio. Sento tutta la tristezza di aver giocato all'umana onnipotenza, dall'alto della minuscola mia umanità. Ching. Nella cella tre pietre lancio. Si sovrappongono. Tre volte. Fra il reticolato ci osserviamo, piccola passera, riconoscendoci. Oggi, sbarre blu, scalda il sole, il vento scorre, che freschezza, frizzo. Oggi, carceri con celle, finestre di sbarre, angoli nascosti, tela di ragni, arazzi di brina, spirali infinite. Relativo assoluto. Sono qui, seduto nella cella, davanti alla finestra sbarrata. Oltre, nell'aria della sezione, nel tetto c'è un reticolato, è una rete da pesca, abita un passero, non è bello e non è brutto, accudisce due nidi, come se fosse l'ultimo che deve fare. Prima l'uno e poi l'altro. Senza ordine, senza contrasto. Entra ed esce, quando vuole. Respiro. Guardare, sentire attraverso e con il respiro e armonizzare tutta l'infinita semplicità dell'essenza della vita, così com'è. Teta preta a sorgere, o sol vela venir, vivere vogliam liberi, non vogliam più servir. Leggi dannose grame, chi prode alti strumenti, secondan sol le brame dei ricchi prepotenti. Haiku senza haiku, versi scatenati. È un progetto a sostegno e in solidarietà a Juan Sorroche, prigioniero anarchico spagnolo attualmente rinchiuso nel carcere di Terni, in regime di alta sicurezza. L'idea nasce dagli haiku senza haiku che in questi ultimi anni ha scritto Juan, piccoli componimenti poetici slegati dai vincoli della metrica, così chiamati perché, come dice lui stesso, da animale in cattività preferisco andare a briglia sciolta. Questa è una chiamata a tutti e tutte coloro che, libere o prigioniere, scrivono versi, per non smettere di sognare, immaginare e, perché no, creare infiniti nuovi mondi. Gli scritti verranno raccolti e pubblicati insieme a quelli di Juan, distribuiti e letti durante serate autogestite di Gem Poetry. Il ricavato andrà a sostegno di Juan e di compagni e compagne colpite dalla repressione. Il tema dei versi lo ha scelto Juan, è la rivoluzione, tanto sociale e politica quanto personale, intima e profonda. Sì, un saluto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Zernis Magnetics. Abbiamo iniziato l'appuntamento di oggi, giovedì 23 di maggio, con questa così rimbalzo, diciamo, da Radio Onda d'Urto, questa chiamata è appunto ispirata dal compagno Juan. E beh, un po' per la così, perché le letture delle compagne e dei compagni di Genova, appunto, che hanno accolto, diciamo, questo suo spunto, e sono molto, sì, le letture sono molto belle, secondo me. E un po' per così, per dire anche che anche da queste parti abbiamo fatto un'iniziativa così ispirata da Juan, appunto, un incontro conviviale poetico e politico nei pressi di Trieste, in un parchetto liberato, ma comunque avremo modo di così magari di parlarne anche in altre occasioni. Intanto, prima di continuare con gli altri argomenti, un po' di musica. We'll be right back. un ben ritrovate e ritrovati a voi altri che state ascoltando in diretta e chi ci ascolta invece in replica, così in differita. Ritrovati insomma dopo questa 15 giorni così di cui non ci siamo sentiti. L'ultima volta che siamo andati in onda qui a Zardins Magnetics, io avevo affrontato una questione così anche un po' sostanziosa che vado un attimo a ripercorrere, però prima volevo fare anche un inciso su questi discorsi che si fanno qui il giovedì sera e insomma comunque in questo spazio così autogestito, va bene, però anche che è un'iniziativa alla fine insomma che facciamo qui noi come così collaboratori, sì, dal punto di vista radio collaboratori, ma come è così un po' di impegnati ecco politicamente per una, diciamo almeno sulla carta, una prospettiva completamente radicalmente insomma diversa da quella che è il mondo esistente. Ecco, no, l'inciso è questo, che appunto possono magari così superficialmente sembrare, ma anche non superficialmente sembrare degli interventi ecco pengi, no? Pesanti, nel senso di piombo proprio per una trasmissione radiofonica, eppure ci sembra che insomma c'è una necessità che è quella di tenere in qualche maniera in piedi un filo di un discorso che è iniziato un bel po' di anni fa, anche che si perde così nelle tenebre così anche dimenticato un po' tutto questo discorso, va ripercorso, va riattivato, va continuamente ecco stimolato nonostante la pesantezza, ecco, secondo noi. Quindi dicevo che lo scorso giovedì era il 9 maggio, lo scorso momento in cui siamo andati in onda in diretta qui da Via Volturno 29 Udine per Zardins Magnetics, avevo parlato di un così intervento che era stato fatto da questo esponente italiano della critica radicale che si chiamava Piero Coppo, che era di quella generazione così di 68ini dell'area di Genova, di cui ho parlato sempre io già da insomma da qualche mese, anno che ne parlo. Piero Coppo ci ha lasciati nel 2021, scriveva in saluto al suo amico sempre così affine politicamente, Jem, pronuncio sicuramente sbagliato, Jem Semprun, che era invece appunto suo amico compagno sodale delle Enciclopedia delle Nocività, quest'altra iniziativa che ha preso vita in ambito francese negli anni 80, alla fine insomma nel pieno riflusso, ecco, e si toccava anche il discorso del niente, no, era un pretesto questo, il pretesto della continuazione, se vi ricordate, una continuazione dei dialoghi sui dialoghi di due profughi, dialoghi di profughi, scusate, che era una messa in scena, diciamo così, di Bertolt Brecht pubblicata postuma, mentre appunto Brecht era in fuga dalla Germania in quanto perseguitato politico. via via aveva attraversato tutti i paesi nordici fino ad arrivare in Finlandia, e metteva in scena questa, appunto, i profughi erano lui praticamente, che si sdoppiava in due personalità, chiamiamolo un militante di base, potrebbe essere un operaio, ecco, un operaio sindacalizzato, politicizzato, eccetera, e l'altro era un fisico, invece un intellettuale, sempre comunque portava una prospettiva politica pure lui, ecco, sempre immaginava di sviluppare ulteriormente il dialogo fra questi due, ecco, dopo, diciamo, un po' di anni dopo la fine della guerra, dopo la fine della guerra, dopo la fine del come si chiama, dei 30 gloriosi, diciamo, quel trentennio dal 45 al 75 in cui appunto l'economia è sempre, insomma, l'economia dell'Europa e del, insomma, atlantica e del Nord America hanno continuato a crescere, prima appunto di arrivare alle grosse crisi economiche della seconda parte degli anni 70 in poi, ecco, e quindi affrontavano tutta una serie di ristagni, di crolli e di, appunto, riflussi politici, di problemi, insomma, legati al fatto che c'è questo ambiente nocivo, c'è questa realtà nociva e c'è questa soggettività che non esiste più, soggettività di classe, diciamo, non esiste più, ecco, annessi e connessi. Prima di andare avanti, io farei ancora uno stacchetto musicale, così per alleggerire. Quindi arriviamo a quel, però facciamo un passo indietro rispetto appunto alle nocività, appunto al momento dell'enciclopedia delle nocività, e ritorniamo a quella fase appunto in cui Hitler praticamente è andato al potere in Germania, essendo appunto i due protagonisti del dialoghi di profughi, essendo appunto tedeschi, perché Kalle e l'altro Ziffel erano appunto tedeschi, esponenti come Bertolt Brecht della realtà chiamiamola marxista non leninista della Repubblica di Weimar. Io adesso però non farò tutto, finiamo mai più, non farò tutti i passaggi tragici appunto dal 1914 al 1933, succede, insomma, per farla veramente breve, si arriva negli anni 20, cioè subito dopo la fine della guerra, è veramente un bignami. Subito dopo la fine della guerra l'SPD praticamente si incarica di reprimere la rivoluzione comunista in varie parti della Germania, che era già scoppiata, Una rivoluzione, i contenuti sicuramente, appunto, vabbè, facciamola breve, e si susseguono una serie di governi, appunto, con non appunto in seguito a questa fase repressiva guidata dall'SPD, con l'appunto anche la messa in minoranza, diciamo, delle correnti spartachiste, e vanno al potere, appunto, rimangono al potere delle forze prima centriste, poi appunto il Partito Comunista viene influenzato in maniera sempre più forte dal Comintern, e arriviamo appunto alla lettura di stasera, che è un resoconto di un testimone diretto, Rustico si chiama, è Juan Rustico, che è pseudonimo di un certo Hippolyte Echeverri, che non so onestamente chi sia. Sicuramente è un tratto da una pubblicazione che si chiama Masses, di quegli ambiti consigliaristi della sinistra comunista, diciamo, quella che si intende sinistra comunista, cioè antileninista, degli anni 30, precisamente giugno 33. È contenuto questo resoconto, tradotto in italiano, in una pubblicazione, insomma, cura di Calusca City Lights di Milano e Collettivo Adespota di Saronno del 2024 febbraio, è uscito a febbraio, mi sembra, no, scritto, non trovo, comunque è reso conto di un incontro che era stato, sono svolti a Saronno nell'aprile 2022, un ciclo di incontri dal biennio rosso all'ascesa del fascismo, però include appunto vari materiali e anche appunto parlano della Germania, sì, della situazione tedesca. Allora partiamo con questa tragedia del proletariato tedesco, disfatta senza lotta, vittoria senza pericolo, sotto il titolo, diciamo. Entriamo appunto novembre 1932, c'è la immediatezza, ne siamo nell'immediatezza, insomma, di nuove elezioni, quindi c'è una tregua elettorale, quindi le forze dell'ordine impediscono qualsiasi tipo di iniziativa, diciamo, connotata, no? Però a Berlino scoppia improvvisamente uno sciopero, una protesta dei mezzi pubblici, dei trasporti urbani. Dentro questa protesta succede quello che adesso andremo ad ascoltare. A Berlino è scoppiato lo sciopero dei trasporti. Tutti i mezzi di trasporto appartenenti alla BVG, azienda municipalizzata, sono fermi. Tram, autobus, vagoni della metropolitana restano nei depositi. Lo sciopero è stato deciso a grande maggioranza dal personale, ma mancavano circa 150 voti per raggiungere i tre quarti pretesi dalla legge perché uno sciopero sia considerato legale. Allora i sindacati riformisti non lo hanno appoggiato. Domandiamo a un socialdemocratico: come mai la direzione del vostro sindacato non approva uno sciopero deciso da una maggioranza così schiacciante del personale? Circa 16.000 operai su 22.000 hanno votato a favore. Non potete capire, perché non conoscete le leggi tedesche. Qui in Germania abbiamo una legge che permette al governo di sequestrare la cassa sindacale quando uno sciopero non è approvato almeno dai tre quarti esatti dei voti. Ci vogliono i tre quarti, proprio i tre quarti, non un voto in meno. Sapete, abbiamo una legge, ma la Berlino operaia, anch'essa una legge, la solidarietà proletaria. Le stazioni della metropolitana restano chiuse. Né un tram né un autobus esce per strada il primo giorno. Le biciclette corrono a migliaia sul pavé. Lo sciopero è unanime. Un giorno, due giorni, tre. I sindacati riformisti passivi sabotano il movimento. Dopo le elezioni i capi nazisti cominciano a negoziare e dentro questa astensione, diciamo questo sciopero, c'erano anche le organizzazioni del partito nazista. Dopo le elezioni i capi nazisti cominciano a negoziare e abbandonano lo sciopero. Bisogna rientrare e lo si fa. 2000 operai, i più attivi, i più coscienti, sono licenziati. La compagnia ne ha abbastanza di loro. Ma lo sciopero ha seminato la paura nei ranghi della borghesia. La classe operaia tedesca pare riacquistare la sua volontà di lotta. E poi questa pubblicazione che non ho detto si chiama Quando muoiono le insurrezioni, fascismo, antifascismo e rivoluzione ieri e oggi, e è molto curata in maniera veramente esasperata nelle note, e dice che praticamente, il motivo di questo sciopero era che i governi di cui parlavo prima avevano preso la direzione di ridurre i salari, cioè continuamente riducevano in percentuali il salario per legge. Anche von Papen, diciamo che era cancelliere nel settembre 32, aveva permesso alle aziende di tagliare i salari fino al 20%, per combattere, erano tutti disoccupati in Germania, perché c'era miseria, c'era inflazione, eccetera, eccetera, c'erano i debiti di guerra ancora. E quindi avevano partecipato a queste lotte, partecipato oltre ai nazisti che ho già detto anche gli stalinisti, appunto del KPD, no? Del Partito Comunista Tedesco, ed è proprio il Partito Comunista Tedesco che aveva promosso l'ammissione dei nazisti nei comitati di sciopero, perché si erano formati questi, durante i giorni del blocco si erano formati dei comitati di questi organismi sindacali, che però poi sono crollati in seguito al fatto che la maggioranza dei lavoratori hanno abbandonato l'astensione. Quindi di fatto non ha avuto nessun esito questi comitati, però è già una nota che questo discorso qua del far partecipare, di non bloccare la partecipazione dei nazi di questi assassini agli organismi sindacali. Si va alle elezioni, eccetera, eccetera, non vanno neanche male, perché i nazisti perdono voti e i comunisti e i socialdemocratici vanno bene, arrivano, sommando i voti, superano di 4% i nazisti. Però cosa succede? Arriviamo a una provocazione che fu quella del gennaio 1933, cioè un'escalation, no? Nel gennaio, per arrivare fino alla nomina a cancelliere di Hitler, c'è un'escalation, e quindi il giorno che era, mi sembra, il 22 gennaio, i nazi si riuniscono sempre a Berlino, stiamo parlando, in Bulow Platz, che era la sede della Karl Liebknecht House, cioè la sede di tutte le diramazioni del Partito Comunista, di tutte le organizzazioni dei compagni comunisti tedeschi. i nazisti sulla Bull of Platz. Un giorno gli operai di Berlino leggono questa notizia incredibile sulla prima pagina dei giornali: i nazisti si riuniranno in Bull of Platz, i nazisti sfileranno di fronte alla Karl Liebknecht House. Nessuno ci vuole credere. La provocazione è talmente chiara, mostruosa e sicura del suo esito sanguinoso che si attende da un momento all'altro una smentita da parte della polizia. La smentita non arriva. Di fronte alla Karl Liebknecht House sfileranno i nazisti con bandiere, musica e canzoni a insozzare le strade del quartiere proletario. Di fronte alla cittadella comunista grideranno a morte la comune. In questo pezzo di ghetto che è Bull of Platz canteranno "Dobbiamo arrossare i nostri pugnali col sangue dei giudei". Nelle fabbriche, officine, strade, birrerie, fra i ragazzi a scuola e le donne al mercato, dappertutto c'è un altro argomento di conversazione. Non c'è altro argomento di conversazione che la marcia dei nazisti domenica 22 gennaio sulla Bull of Platz davanti alla Karl Liebknecht House, sede centrale del Partito Comunista. Operai berlinesi, proclama Die Rote Fahne, obbligate il governo a fare marcia indietro, manifestate nelle fabbriche, nelle officine, inviate lettere di protesta. Operai socialisti, ricordatevi che i comunisti sono accorsi in difesa del Vorwärts minacciato. Ora è il vostro turno. Il Vorwärts era l'organo del Partito Socialdemocratico, l'organo di stampa. Il Partito Comunista fece di tutto, preparativi in vista di una contromanifestazione, passi presso il Ministero dell'Interno per bloccare la sfilata nazista, conferenza stampa con i giornali tedeschi e con quelli stranieri per far conoscere le dichiarazioni molto importanti della frazione parlamentare. Il Partito Comunista ritiene responsabili le autorità per quanto accadrà in Bull of Platz e si riserva di agire di conseguenza se sarà versato del sangue operaio. Fece di tutto, ma tutto ciò che fece e disse era minaccia e appelli alla base, oltrepassando i capi. Si dimenticò di agire. Com'era evidente quel giorno, l'impotenza di una politica fanfarona e vuota a fronte di un pericolo reale. Davanti alla Karl Liebknecht House si avvicendavano piccole colonne guidate dai gruppi comunisti. Il capo se ne staccava per pronunciare una breve arringa. Inviate lettere di protesta al prefetto di polizia, discutete coi proletari nazisti nelle officine, nelle fabbriche. E ripartivano, schierati in formazione. In alcuni gruppetti si discuteva. Non oseranno, scommetto che all'ultimo momento la polizia vieterà la manifestazione. Un vecchio: no, la faranno, non possono più fare marcia indietro, ma colerà del sangue. Gli altri: sicuro che ne colerà. Domenica mattina, non c'è modo di raggiungere Bull of Platz, gli accessi sono sbarrati dalla polizia. Carabina alla mano, gli agenti chiudono tutte le strade entro un'area molto estesa. Giriamo fra i gruppi di operai che si formano dappertutto. Si discute cosa si farà, cosa si sarebbe dovuto fare. Si farà qualcosa? Disorientamento profondo. La polizia pattuglia le strade. Un autoblindo fa la sua apparizione con un gran fracasso. Le bocche grigie di quattro mitragliatrici sono salutate con disprezzo dagli operai. Hanno bisogno di quel coso lì per venire da noi. Ci lasciano manifestare davanti all'Angriff, era il giornale di Goebbels. Noi non chiediamo di venire protetti dalle autoblindo, sono tutte le varie voci degli operai. Non ci sarebbe bisogno di sbarrare le strade, né di mettere poliziotti sui tetti. L'indignazione, la vergogna, la rabbia rimbombano nel quartiere. Le tre frecce sul bavero segnalano alcuni aderenti al fronte di ferro. Si tratta di operai socialisti. Erano altre così formazioni da sinistra. Discutono attorniati dai comunisti. Ancora una volta i vostri capi fanno il gioco dei fascisti. Vi hanno detto di restarvene a casa oggi. Hanno allontanato la Reichsbanner, che erano così il servizio d'ordine dell'SPD. Noi vogliamo l'unità, vogliamo che lottiate con noi. I vostri capi vogliono l'unità. I nostri capi, sempre lo stesso ritornello, i vostri forse vi dirigono meglio. Cosa fanno oggi i vostri capi? Vi hanno detto di venire qui a gridare Rotfront. Voi gridate, non fate altro che gridare. si è formata una colonna, tentativo di manifestazione, abbasso il governo, a morte Hitler. I poliziotti accorrono, manganellate, dalle finestre piovono urlate sugli agenti, questi, le carabine puntate contro le case, ordinano, chiudete le finestre, chiudete le finestre. Si discute in un gruppo, un vecchio operaio si rivolge a chi ha ripreso a gridare, che bambinata, non serve un bel niente, non si combinerà niente gridando, dove siamo noi 800.000 che abbiamo votato comunista? Accorrete da tutti i quartieri, piombate sulla piazza dove adesso stanno ammassati e schiacciateli come vermi. E le sue dita magre li schiacciano, come vermi appunto. Il partito deve aver ordinato di concentrarsi nei quartieri per impedire ai nazisti di partire verso lo Bulow-Platz. Il partito ha ordinato di radunarsi nei dintorni della piazza per manifestare. Verso le 5:30 era tutto finito, le ultime schiere naziste, quasi invisibili dietro le colonne di poliziotti che le proteggevano, abbandonavano il quartiere di Bulow-Platz. Più che una manifestazione nazista, si sarebbe potuto dire che nella piazza e nei suoi dintorni avesse avuto luogo una manifestazione della polizia, munita di tutte le sue armi. I militanti di ritorno a casa trovavano in questa osservazione una magra consolazione. Ecco, poi il 30 gennaio appunto Hitler viene nominato cancelliere e nel giro di poche settimane si ritorna alle elezioni. Prima di questo però, che perché si svolgono mi sembra in marzo, c'è un bel, secondo me una bella, ancora delle belle pagine che riguardano una delle ultime manifestazioni così di compagni berlinesi, che si svolge nel passato alla storia, questo Berliner Sportpalast, che era un palazzo per il pattinaggio, dove appunto anche Goebbels ha tenuto vari dei suoi discorsi deleteri. Quindi 14 febbraio, le 2 del mattino. Stiamo tornando dal Berliner Sportpalast, dove la Federazione Sportiva Rossa ha organizzato la sua festa del ghiaccio. Berlino è tutta imbiancata, in Potsdamer Platz. La neve caduta per ore e ore si è divertita con le statue, guance infiate, parrucche bizzarre, pesanti pellicce bianche. Agli alberi ha dato un taglio netto, metà bianco, metà nero. È troppo tardi, la metropolitana è già chiusa, alcuni gruppi di operai vanno a piedi, spingendo a mano le loro biciclette. Hai visto? Non hanno osato. Certo che non hanno osato, eravamo ben 10.000. Eravamo 10.000, forse di più. Alle 7 la sala era già piena. Bisognava passare in mezzo a due ali di giovani del servizio d'ordine, che per almeno una cinquantina di metri formavano un lungo corridoio di sguardi attenti. Nella sala fa caldo, malgrado la pista di ghiaccio. Via via ci si stringe per far posto a quanti stanno ancora arrivando. A fatica i venditori di cetrioli salati riescono ad aprirsi un varco. Nell'attesa si cena, qualche sandwich, una mela. Il numero dei sandwich distingue il disoccupato dall'operaio che ha ancora un lavoro. Le parole d'ordine si stagliano chiare sugli striscioni rossi. Contro la fascistizzazione dello sport. Contro il servizio obbligatorio, per l'unità dello sport rosso. Comincia a salire la bella enfasi d'un canto di speranza. Fratelli, verso il sole, verso la libertà. 10.000 bocche riprendono gli inni allo sport rosso. Si pronunciano alcune parole sul ruolo dello sport proletario. Poi è lanciato un appello per votare la lista 3 alle elezioni del 5 marzo. Quindi l'altoparlante annuncia la sfilata dei partecipanti. Scivolando lievemente sui pattini, la colonna avanza, percorre la pista, torna indietro mentre viene dato il segnale d'inizio della festa. Incontri di hockey, corse di tutti i tipi, valzer viennesi danzati meravigliosamente sul ghiaccio e le ore passano. Il pubblico annota con cura tutti i risultati. Sulle scalinate sodono schioccare i talloni, secchi, militareschi. I picchetti del servizio d'ordine si mettono in posizione. Quasi 6 ore... di sport su ghiaccio, neppure un incidente. Il fascismo è al potere da 15 giorni, ma i suoi uomini non hanno osato venire al Berliner Sportpalast. È l'1 del mattino quando si va via. Gli operai, che che abitano distante si allontanano a gruppi sui marciapiedi. Alcune colonne del servizio d'ordine badano a che ce ne si vada via a gruppi. Ultima, così, ultima parte di questa lettura che ho scelto perché ritrae diciamo il passaggio, la soglia tra appunto questo momento di scontro, di duello, chiamiamolo, di sì, i ferri corti, diciamo, tra queste due forze, appunto, che combattevano per il fino all'ultimo sangue, insomma, di questa tragedia che fu appunto la realtà del post, insomma, post rivoluzionaria della Germania del Novecento, e la soglia, appunto, il passaggio tra questi, insomma, tra questi che chi abitava, che esponeva le bandiere. A un certo punto le bandiere scompaiono e si sa che i nazisti hanno un consenso enorme in tutta la Germania, anche a Berlino, però questi sono appunto quelli che avevano chiamato quelli della zona grigia, le persone che non si espongono, le persone insomma che sopportano tutto, che inghiottono tutto, che si abituano a tutto e a un certo punto si manifestano, salutano appunto, fanno un saluto nazista, hitleriano alle sfilate di queste camicie brune qua. Adesso andiamo a leggere. Negli ultimi giorni di febbraio l'aspetto delle strade comincia a cambiare. Appartenevano agli operai le strade, adesso non sono di nessuno. Abbandonate dai lavoratori, non hanno ancora un nuovo padrone. Non vi si vedono i nazisti, ma neanche più i cortei operai, né quei picchetti di autodifesa che le percorrevano per andare a posizionarsi. Le elezioni si avvicinano, poche bandiere alle finestre. Quel bello spirito politico che avevamo notato fino ad allora sparisce. Anche i sostenitori dei nazisti cedono. Strano fenomeno. Essi stessi sono un po' terrorizzati. Il 4 marzo ha luogo quel magnifico risveglio della nazione favoleggiato dall'immaginazione di Goebbels. Rientro a casa con le fiaccole la stessa sera in ogni villaggio e città del Reich, con fuochi accesi in tutte le frazioni di montagna. Ci fermiamo all'angolo fra la Friedrichstrasse e la Unter den Linden. Non c'è poi tanta gente, soprattutto pochissimi distintivi nazisti. Ti dico che sono dei curiosi come noi, tutto a un tratto movimento. Spingono da tutte le parti, laggiù, lontano, discendono la Friedrichstrasse, dal lato nord. Si vede un nastro di punti gialli, brillanti. Sono fiammelle tremolanti che si spostano con oscillazioni uniforme. Stanno arrivando, arrivano. Gli agenti eccessivamente gentili. Signori e signore, per piacere, spostatevi un po' più in là, devono passare da qui. Una vecchietta molto ben vestita lì per lì è presa nel movimento, non riesce a capire. Ma cosa c'è? Cosa c'è? È il ritorno dei nazisti con le fiaccole. Ah, bah. E fa un gesto secco, affatto sprezzante. Deve essere del partito di Hugenberg o del Zentrum. Ai bordi della strada gli edifici si tingono di rosso. Vi vacilla sopra un lucore d'incendio. Eccoli. Tutta la gente senza distintivo intorno a noi alza il braccio romanamente. Toh, erano nazisti pure loro. Piccoli borghesi impauriti che non metteranno, prima dei risultati elettorali, la bandiera con la croce uncinata alla finestra o il distintivo hitleriano all'occhiello. E poi ci sono appunto altre descrizioni, i raduni di comizi di Hitler, eccetera, eccetera. E le vicine di casa che imparano l'inno Horst Wessel Lied, e così si conclude questa cronaca insomma sulla tragedia del proletariato tedesco. Io volevo solo in conclusione anch'io legare di nuovo il discorso all'intervento sul all'intervento sul potere della pittura che aveva quell'articolo che avevamo letto 15 giorni fa, dove appunto sempre un descriveva appunto descriveva la perdita definitiva di certi panorami, di certi quadri, di certi cortili. Vi è stato un tempo, no? Puntini di sospensione, è compito appunto dei rivoluzionari comunque e di chi pratica la critica di portare di nuovo, cioè no, mantenere questa, impedire l'oblio definitivo di questa realtà che è stata insomma su cui si sono appoggiati i rivoluzionari nella storia, e nelle parole di uno che ha partecipato direttamente alla tragedia del proletariato tedesco, che era Walter Benjamin, lui diceva Il compito del ricercatore comincia con questo, che egli può ritenere garantito un simile fatto, cioè, vabbè, insomma, un simile fatto soltanto quando la sua più intima struttura apparirà tanto essenziale da mostrarlo in quanto origine. Si sta parlando, insomma, è la premessa, devo fare una premessa anch'io perché altrimenti non si capisce la citazione. Sta prendendo la parola appunto Walter Benjamin nella sua famosa premessa nosologica, davanti, che è messa appunto premessa al suo saggio sul dramma barocco. Quindi la riflessione, dice Benjamin, viene meno a un certo punto del processo storico, la riflessione sembra venir meno, in particolare la distinzione tra questione di diritto e questione di fatto. Lui dice, però non è che ogni precedente fatto sia da prendere come un momento costitutivo, cioè come un momento importante, piuttosto, ecco, arriviamo finalmente la citazione, piuttosto il compito del ricercatore comincia con questo, che egli può ritenere garantito un simile fatto soltanto quando la sua più intima struttura apparirà tanto essenziale da mostrarlo in quanto origine. Quel fatto lì sarà anche un'origine. L'autentico, questo marchio di originarietà nei fenomeni, è oggetto di scoperta, di una scoperta che in modo del tutto peculiare va connessa con il riconoscere. Kifferbraut, du wirst doch keine Anzeige kriegen, oder? Nein, bloß nicht. Dann komm heute Nacht mal auf meine Bude, Sackgasse, Ecke, Hohenallee, alles klar? Okay, mach ich. Mann, frei, komm aus der Naht. Mann, frei, komm aus der Naht. Mann, frei, komm aus der Naht. Mann, frei, komm aus der Naht. Sì, allora dalla Germania del 33, dalla tragedia del proletariato tedesco, facciamo un salto e arriviamo alla Palestina. E ci ricolleghiamo però anche alla prima parte della trasmissione, cioè alle poesie di Juan. Perché diciamo qualcosa sulla Palestina attraverso le parole di Mohammed El Kurd, che è uno scrittore poeta di Gerusalemme, il quale ha scritto questo articolo, Sta arrivando la pioggia, un articolo che è comparso su Invicta Palestina, dove che è una specie di, così, diciamo, grido di speranza. Lui dice: ho letto che a Gaza hanno aperto un nuovo asilo al nord, una specie di Fenice, e voglio credere che ci sia già un profumo pulito di gelsomino che accompagna le maestre durante la loro giornata. Che cosa, se non il gelsomino, può alleviare il fastidio dei bambini e il fastidio degli aerei da guerra? C'è il gelsomino perché, per germogliare, i semi non hanno bisogno di permesso né di cessate il fuoco. E continua questo poeta: siamo senza dubbio soggetti di conquista e colonizzazione, prodotti delle circostanze, ma siamo anche molto di più. Ad ogni svolta della nostra sanguinosa storia siamo stati brutalizzati, privati di beni, espropriati, esiliati, affamati, massacrati e imprigionati. Ma con sgomento del mondo ci siamo rifiutati di sottometterci. Per ogni massacro e invasione ci sono stati e ci sono ora uomini e donne che imbracciano le loro armi, improvvisate e sofisticate, molotov, fucili, fionde, razzi, per combattere. C'è sempre stata la lotta, c'è sempre stato il gelsomino. Se i semi possono germogliare nell'inferno, può farlo anche la rivoluzione. E da queste parole, appunto, di Mohamed El-Kurd, che è uno scrittore e poeta di Gerusalemme, nella Palestina occupata, e arriviamo invece, passiamo alla Grecia. E in questi giorni, cioè qualche giorno fa veramente, a metà maggio, e è successo che, appunto, diciamo, in occasione di un accampamento, di una campada che si è svolta presso la facoltà di giurisprudenza di Atene, appunto una campada solidale con la resistenza palestinese, così, quindi nel filone, diciamo, del movimento globale dell'intifada studentesca, e ci sono stati 28 arresti da parte della polizia greca, che, appunto, da un bel po' di tempo ha la possibilità di entrare proprio dentro l'università. Questa roba della polizia dentro l'università non è una cosa pacifica, diciamo, una cosa che sta dilagando, si sta sviluppando e prendendo piede in questi anni. E tra questi 28 arresti ci sono 9 compagni e compagni che non hanno, diciamo, documenti greci, e tra cui anche alcuni che hanno documenti italiani. E insomma, di queste 9 compagne e compagni sono stati portati in un CPR appunto della Grecia, ossia 8 donne sono state portate nel CPR, l'unico maschio invece è stato trattenuto, insomma, arrestato e trattenuto presso la polizia. Allora, questo tra l'altro su Blackout vi dico, è interessante, cercando, insomma, nel mese di maggio, nelle varie trasmissioni, c'è stata anche un'intervista a una delle compagne che è detenuta appunto in questo CPR che si chiama in località Amigdalesa. Allora, c'è questo comunicato dei compagni greci, che sono un comunicato interessante, che è in solidarietà con i compagni detenuti, in solidarietà con la Palestina e con tutti i detenuti e i prigionieri politici, che qua e là vado a leggervi. Allora, le compagne e compagni greci dicono: la sera del 13 maggio studenti di Atene si sono uniti al movimento globale dell'intifada studentesca in solidarietà con la Palestina e con il sostegno di Solidali hanno occupato la facoltà di giurisprudenza di Atene. La mattina dopo la polizia ha fatto irruzione nello spazio occupato e ha arrestato 28 persone. E parliamo di 200 e oltre poliziotti che hanno attaccato e sgomberato la facoltà. Dopo la messa in pratica della legge che consente la presenza della polizia greca all'interno dei campus universitari, l'anno scorso si sono scatenate ondate di violenza contro gli studenti nei loro stessi campus, mentre quest'anno si è assistito a un percorso accelerato verso la privatizzazione delle università. L'aumento della presenza della polizia e le tattiche di intimidazione in spazi un tempo liberi e autonomi si estendono oltre le mura dell'università. Le 28 arrestati nella facoltà di giurisprudenza di Atene sono stati immediatamente trasferiti alla stazione centrale di polizia di Atene, Gada. Agli avvocati è stato consentito l'accesso ai detenuti solo 8 ore dopo il loro arresto e la polizia ha cercato di costringere i detenuti e le detenute a fornire le impronte digitali prima dell'arrivo dei loro avvocati. Questo è una, diciamo, in questa occasione è stata rispolverata una usanza che era in voga al tempo dei colonnelli, del regime dei colonnelli. Nel frattempo centinaia di solidali si sono riuniti davanti alla Gada, chiedendo l'immediato rilascio delle persone arrestate e affermando il loro sostegno a una Palestina libera. Dopo aver ricevuto l'informazione che tutti i 28 arrestati sarebbero stati incriminati, sono stati costretti a passare la notte a Gada. E appunto quello che dicevo, la legge che è stata rispolverata, che era appunto in voga durante il regime dei colonnelli, è quella che punisce chiunque si rifiuti di dare le impronte digitali. Il giorno successivo il tribunale avrebbe dovuto svolgersi a mezzogiorno il processo, ma è stato deliberatamente ritardato di qualche ora. I solidali erano presenti in tribunale per mostrare il loro sostegno agli arrestati con canti che chiedevano una Palestina libera e la fine delle tattiche di intimidazione. Alla fine le 28 persone sono state portate davanti al pubblico ministero e la decisione è stata quella di rilasciare tutti e rinviare il processo al 28 maggio con le accuse di vandalismo, disturbo dell'ordine pubblico, rifiuto di collaborare con le procedure di polizia, appunto le impronte digitali, e possesso di armi, tra virgolette. E nonostante la decisione del Tribunale Penale di rilasciare tutte le detenute e i detenuti, la polizia ha deciso diversamente. Il Dipartimento di Sicurezza dello Stato ha registrato le 9 compagne e compagni internazionali non greci come indesiderati e ha deciso di procedere con una detenzione amministrativa. Quindi le compagne e compagni sono stati prima inviati alla divisione stranieri della polizia di Attica e successivamente 8 delle 9 sono state trasferite al centro di detenzione preventiva di Amigdalesa, mentre l'unico compagno maschio è rimasto solo alla divisione stranieri. La detenzione e la minaccia di deportazione dei 9 detenuti con cittadinanza italiana, spagnola, francese, tedesca e britannica è una nuova applicazione di questi ordini repressivi che intimidiscono e prendono di mira il movimento di solidarietà con la Palestina. E continuano i compagni e le compagne greche in questo così comunicato di solidarietà. La tecnologia utilizzata dallo Stato greco nei suoi respingimenti violenti e mortali dei richiedenti asilo si basa sulla ricerca e sulle tecnologie di contenimento, sorveglianza e controllo che lo Stato israeliano sperimenta sui palestinesi di Gaza e della Cisgiordania. Il dissenso contro lo Stato israeliano, la sua occupazione militare della Palestina e le guerre che conduce a Gaza, in Libano e in Siria, è una minaccia per l'Unione Europea e per il complesso di sicurezza militare dei confini della Grecia. I media di destra greci hanno diffuso informazioni sulla detenzione e la deportazione dei 9 individui, prima che qualcuno di loro o i loro avvocati ne fossero informati. Una mossa che sottolinea l'uso dei media da parte dello Stato come strumento di guerra psicologica e la loro fedeltà ai media rispetto ai processi legali formali. Venendo a conoscenza del loro destino attraverso i media piuttosto che attraverso i canali legali, le detenute e i detenuti sono stati privati della loro capacità di agire e sono stati gettati nell'incertezza. Queste sanzioni e reazioni legali sono risposte severe e senza precedenti alle accuse di reati minori. Solidarizzando con le persone prese di mira, possiamo smascherare i meccanismi oppressivi dello Stato e continuare la lotta per la vera liberazione. La resistenza non morirà mai, la Palestina non morirà mai. Queste intimidazioni e tattiche repressive non possono e non potranno mettere a tacere la nostra rabbia né fermare la nostra solidarietà con la Palestina. E infine, appunto, le compagne e compagni greci esprimono le loro rivendicazioni. Nessuna deportazione per le nove internazionali. Chiediamo il loro rilascio immediato, senza restrizioni fino alla data del processo. Chiediamo la completa abolizione della detenzione amministrativa per le persone senza documenti, i migranti, i richiedenti asilo in Grecia, insieme alla legge razzista della deportazione amministrativa. Siamo contro i media che collaborano con la polizia e che cercano di diffondere il terrore contro le persone che lottano e alzano la voce per una Palestina libera. La lotta continua, fermate il genocidio, fine dell'occupazione della Palestina, tutti gli occhi su Rafah. E questo appunto era quindi il comunicato solidale dei compagni e compagni greci sui fatti avvenuti tra il 13 e il 14 maggio scorso. E in questa intervista a cui accennavo prima, fatta una compagna che appunto si trova nel CPR praticamente greco di Amigdalesa, e lei diceva che la roba delle impronte digitali, praticamente loro in realtà non si sono rifiutati del tutto di dare le impronte digitali, ma si sono rifiutati di darle in assenza degli avvocati, cioè prima dell'arrivo degli avvocati, no? Quindi per temporeggiare, diciamo, per anche capire come comportarsi. Ma questa cosa invece è stata, con l'inganno, è stata considerata come un rifiuto, insomma, infatti, e da qui è scattato il discorso dell'arresto, della punibilità per questo motivo. E poi raccontava anche che loro prigioniere sono state messe in isolamento rispetto al resto della popolazione dei CPR, e proprio perché per evitare che appunto potessero in qualche modo dare una mano anche agli altri prigionieri, insomma, perché appunto la polizia ha capito che loro conoscono i meccanismi di questi centri di concentramento per stranieri, sia in Grecia che nel resto dell'Europa, e insomma, quindi appunto possono in qualche maniera interferire con lo sporco lavoro dei carcerieri. E si segnalava appunto poi le condizioni di vita estreme, insomma, in questo CPR, dal punto di vista dei servizi igienici, dal punto di vista, insomma, delle condizioni minime di vita, e anche dal punto di vista del cibo, quindi la carenza di cibo, e unita alla paura che nel cibo vengano appunto aggiunti degli psicofarmaci, come avviene in tutti questi centri di detenzione. Ma contemporaneamente diceva che appunto la folta presenza di solidali nei pressi, cioè subito fuori dalle mura, insomma, del CPR, ha permesso di, e quindi questi solidali hanno avuto la possibilità di fare arrivare del cibo all'interno, insomma, perciò ha detto questa compagna che non si sono mai sentite da sole o sperdute o abbandonate, ma che dal primo momento, diciamo, dell'arresto e della, pur essendo in questa condizione brutta, insomma, decisamente pesante, però si sono sempre sentite appoggiate e così. E quindi, insomma, poi daremo gli sviluppi dopo il 28 maggio, appunto giornata in cui ci saranno le udienze. E allora, stasera avevamo intenzione anche di parlare della Nuova Caledonia, di quello che sta succedendo, le rivolte in Nuova Caledonia, facendo un po' sia un escursus storico, diciamo, che parlando dell'attualità, del continuo così intento colonialista e della Francia, ma non solo della Francia, ma insomma in questo specifico caso della Francia. Però il tempo stringe e quindi è peccato, diciamo, risolvere l'argomento così in 448, quindi direi che si può riprendere tranquillamente il prossimo giovedì. E niente, e lascio la parola alla regia per... Mi manca una cosa. Allora, pensavo lo dicesse la regia, ma lo dirò io. E sabato, quindi dopodomani, che è il giorno 25 maggio, e a partire dalle ore 16 a Udine, al Parco di Cemento dei Rizzi, e ci sarà una, diciamo, manifestazione, iniziativa politica conviviale transfemminista contro il militarismo, contro la repressione, anche contro la società del controllo sempre più minuziosa che stiamo vedendo avanzare. Si tratta della Redilda. Allora, lo scorso giugno, quando c'era stata la famigerata adunata degli alpini, c'è stata questa iniziativa presso lo spazio autogestito di Via dei Rubei, Saudine, questo incontro, insomma, che voleva opporsi con varie iniziative alla presenza asfissiante e intollerabile dei militari in città, all'invasione dei militari in città. Era maggio, ok. 23. Ecco, come oggi, quindi. No, del 2023. Sì. Bon, era maggio 23. Bon, e allora c'è stata questa iniziativa. E questa iniziativa è stata, insomma, partecipata molto, molto, una bella iniziativa, e si è conclusa con una stretta repressiva piuttosto pesante a carico di alcune compagne accusate di vilipendio delle forze armate, di imbrattamento per degli adesivi antimilitaristi. E allora sabato si riprenderà un po' questo discorso, quindi ci sarà una Redilda, una reunion della Redilda, e per parlare un po', insomma, aggiornare un po' su questa situazione, ma non solo su questa, appunto, in generale, come dicevo prima, sulla militarizzazione della società, e si parlerà anche di Palestina, di guerra, insomma, di varie cose. Dalle ore 16, non mi ricordo se l'ho detto, dalle ore 16, quindi incontri, anche momenti, appunto, conviviali, si mangerà, si berrà, e anche un concerto verso sera, e quindi siete tutte invitate e invitati. Adesso basta e lascio la parola alla regia per le ultime cose. Mandi. 病気を患者が入院し、その後死亡した。安倍被告はこれはエイズだ、王様になるから口外しないようにと指示する一方で、この症例を研究班に報告。研究班でエイズの認定を見送られた後も、あの方は絶対にエイズですと言っていた。大っぴらになると大きな社会問題になる。 データの公表を慎重に扱うよう指示した。安倍被告の権限は絶大であり、治療方針についてもこれを決定する立場にある。また安倍被告は部下の助教授らに加熱製剤の治験の計画案を知らせ、自ら治験を導入した。安倍被告は多数の製薬会社から国際会議への参加旅費や財団の設立資金などとして 8,8,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4, quanto concerne il finale di questa trasmissione, che è la trasmissione Zardins Magnetics, che ogni giovedì è in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, dalle ore 20 alle 21.30, oggi giovedì 22 maggio. Ricordo un po' in modo veloce, senza particolare presentazione, delle band, che a parte gli Interterrestrials in apertura programma ci siamo ascoltati Beyond Description, che è una band giapponese, come questi Asbestos che ci stiamo ascoltando ora in sottofondo, mentre poi abbiamo ascoltato durante tutti gli interventi una band della zona di Treviso, Venezia, i Robox, da un album uscito 2 anni fa, poi gli FFF, band tedesca, e gli inglesi Amebix. Poi ricordo che i nostri contatti per questa trasmissione sono, allora, se volete scriverci a posta elettronica basta scrivere a liberetutti@autistiche.org, oppure intestare tramite la posta, insomma, scritta in vecchia maniera ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che questa trasmissione, ma anche quella delle dei giovedì scorsi e passati, potete ascoltare potete andare alla ricerca sull'internet a zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Salutiamo tutti quelli che ci ascolteranno in replica anche domani sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.